Tempo di Sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti. Vorrei sentire subito una voce. Alessia Filippi. Oro è stato, l'ho ricercato, lo volevo, l'ho preso così, sono contentissima, un'emozione che non dimenticherò mai nella mia vita. Questa sarà un'ora formidabile, voglio salire su quel gradino e sentire il pubblico, il mio pubblico. Una rimonta straordinaria, gara che avevi preparato proprio così. Ma io ancora non ho visto il mio allenatore, non so la tattica, però era fondamentale non farsi distaccare nella prima parte della gara, sono rimasta in gara, non volevo far gareggiare prima le altre. La mia seconda parte sicuramente è migliore, era impossibile rimanere avanti, insomma andare avanti subito, però penso sia stata tatticamente fatta bene. Quanto hai sentito il pubblico? Tantissimo, li ringrazio. Un'emozione fortissima, non ho mai provato nella mia vita, ma tuttora ancora non ci sto capendo nulla. C'è una dedica particolare a lei? A me stessa. Non chiamatela più pupona, per favore, con Alessia Filippi e Federica Pellegrini. Naturalmente l'Italia nuota nell'oro come zio Paperone. Nella seconda parte del programma andremo naturalmente da Dario Ricci alle piscine mondiali, ma nella prima parte del programma oggi ci vogliamo proprio divertire. Sapete bene qual è il divertimento estivo preferito dagli italiani? Il calciomercato. Puntata stranissima quella di oggi, bellissima secondo me. Una voce che è qui con me, che conoscete molto bene, anche se normalmente purtroppo non vi parla di sport. Dalla Zanzara, Giuseppe Cruciani. Ciao Giuseppe. Buongiorno, buongiorno, grande appassionato di calciomercato. Per me il calciomercato è più importante del campionato. Seguo più il calciomercato delle partite, incredibile. Sì, ma non sei l'unico, eh. Ce ne sono tantissimi come te, ne conosco almeno una quindicina. Un'altra voce, quella del programma televisivo cult dell'estate invece, ed è Alessandro Bonan, conduttore di Speciale Calciomercato su Sky. Ciao Alessandro. Ciao ragazzi, ciao. Prima di parlare di calcio però, del calcio che verrà dopo il 31 agosto, data di chiusura del mercato, propongo anche a voi due un tuffo nella piscina di Roma, ma per curiosità mia. Filippi Pellegrini, diverse, belle, vincenti, non valgono le risposte di comodo. Chi preferite? Giuseppe Cruciani? Nessuna delle due. Alessandro Bonan? Ma è difficile, una risposta complicatissima, però così a pelle dico Filippi. Filippi, perché nessuna delle due, Giuseppe? Non è uno sport che mi appassiona. Ah. Però come personaggio preferisco la Pellegrini, la Filippi è troppo legata a Francesco Totti. Oh, scherzo. Da medaglia al mercato dell'Inter, Alessandro. Ultimo intrigo, quello di oggi. Leb che misteriosamente preferisce lo Stoccarda all'Inter. Non ci crede nessuno, naturalmente. Comunque all'Inter serve un trequartista. Sì, no, insomma, la storia di Leb è particolare. È la storia di un giocatore che evidentemente fa la classica scelta di vita. Questa è una frase fatta che tiriamo fuori spesso a sproposito, però nel caso di Leb è calzante. E l'Inter a questo punto rianima il mercato e noi siamo tutti contenti. Stasera noi punteremo molto sulla suggestione Cassano, che è quella che quantomeno ci piace di più. Poi dopodiché c'è Deco, che è un giocatore diverso, c'è Lavezzi, che è un giocatore più alla Cassano rispetto a Deco, però Cassano è quello che insomma ci stuzzica maggiormente, ecco, diciamo. Non credo soltanto sottoscritto noi di calciomercato, ma un po' tutti. Ecco Alessandro, ma tu davvero credi che uno possa preferire lo Stoccarda all'Inter? Per carità, con tutto il rispetto dello Stoccarda, che è una signora squadra, credo che farà la Champions League, se non sbaglio, almeno i preliminari. Ma insomma, pare piuttosto bizzarro. È vero che ci sono dei problemi, adesso non entriamo nei dettagli di contratto col Barcellona, ma insomma, preferire in questo momento la squadra che può ingaggiare tu, una squadra dal punto di vista internazionale comunque in ascesa e con possibilità come l'Inter, preferire invece lo Stoccarda sembra un po' bizzarro. Ho l'impressione, ma forse questa è dietrologia, d'altra parte voi di calciomercato avete la sigla di James Bond in apertura, per cui si possono fare anche questi ragionamenti. Ho l'impressione che forse Mourinho, non troppo contento all'inizio della vicenda Eto'o, Ibrahimovic almeno voglia qualcosa di suo, no? E allora sull'Eb magari si è un po' impuntato, o no? No, io credo che Leb, a parte considera Stoccarda casa sua, anche se lui non è di Stoccarda, però insomma lì c'è stato bene, e poi si è rimasto scottato dall'esperienza di Barcellona. Probabilmente è un giocatore particolare che ha bisogno di essere considerato, a Barcellona è stato messo ai margini e forse ha fiutato che all'Inter poteva accadere la stessa cosa. Allora, di fronte a questo il giocatore che ha 28 anni, che evidentemente pensa che sia più opportuno per lui giocare piuttosto che magari giocare in una realtà minore, piuttosto che invece magari fare la comparsa da un'altra parte in una società importante come l'Inter, abbia scelto quella strada. Io credo che sia veramente la scelta di un calciatore che forse non è troppo così coinvolto nello star system adesso dei calciatori di ora, e quindi evidentemente insomma, questo poi alla fine ha pesato. Carlo, faccio un'altra domanda, sì, ad Alessandro. A proposito della vicenda Lebbe, il tuo guru Di Marzio che dice? Il guru Di Marzio stamattina ci siamo sentiti e gli ho detto: senti Gianluca, io insomma sono innamorato di sta cosa di Cassano, che però non possiamo così inventarci di sana pianta. Lui: ma che invenzione? No, non c'è nessuna invenzione. Ma dai, su. No, non c'è nessuna invenzione. Tra l'altro stasera noi avremo un'intervista esclusiva al procuratore di Cassano, che non credo escluderà. Anche a Pardo? Intervistate anche Pardo? Su Cassano. Pardo in questo momento credo sia Ibiza, cioè lui manca sempre nei momenti più importanti, Pardo se ne va. No, scherzo. Però cioè, c'è più che un'idea, insomma, che un'idea. A volte ci innamoriamo delle idee nel calciomercato ed è l'errore più grave. Nel calciomercato si possono compiere due tipi di errori: primo, innamorarsi dell'idea; secondo, fare i fenomeni. Ecco, non bisogna fare né nella prima cosa né la seconda. Bisogna semplicemente seguire diciamo il flusso della notizia. Cassano ci può stare, vi garantisco che ci può stare, poi potrà non accadere, non ci saranno le condizioni sicuramente, però è un affare che può stare in piedi. Ma come lo vedreste Cassano nell'Inter? Io ricordo anche il numero verde 800 24 00 24, immagino tantissimi ascoltatori oggi, anzi so che stanno già arrivando, ma come lo vedreste Cassano all'Inter? Detto che Garrone l'altro giorno ha detto che Retondo al 100% rimane qui, però sono parte della trattativa queste dichiarazioni. Come lo vedreste Cassano all'Inter, Giuseppe? Ma io benissimo. Benissimo. Assolutamente sì, in qualsiasi ruolo, in qualsiasi momento, in qualsiasi posizione del campo, non c'è nessuna incompatibilità. Un giocatore come Cassano non può essere incompatibile con nessuno. Alessandro? Cassano, Milito e Eto'o, un attacco eccezionale. Bisogna ritagliare un ruolo ancora diverso a Balotelli. Credo che proprio la difficoltà della trattativa nasca anche dal fatto che in questo momento, alla vigilia, è caso di dire, anche se siamo alla fine di luglio, la vigilia del campionato, che inizierà il 22 di agosto, per la Sampdoria sia molto difficile e complicato sostituire Cassano. Però magari, non lo so, l'Inter c'è anche qualcuno di ritorno che può mettere sul piatto. Però Cassano, Milito e Eto'o mi sembrano tre che insomma che migliorano l'Inter in attacco rispetto allo scorso anno. Tanto dobbiamo aspettare che ritorna calciomercato il programma di Alessandro, che va in vacanza il 20 agosto, quando torna si fanno gli affari, no? Torniamo il 21, sì, 21, sì, torniamo il 21. Dal 21 sì. In avanti. Pensa a uno scambio Cassano-Balotelli. Perché no? Già il nome di Balotelli era stato accostato alla Sampdoria in inverno, mi sbaglio? Sì, è vero. No, ma infatti su queste basi è un affare che ci può tranquillamente stare. Bisogna capire fino a che punto l'Inter ha voglia di rischiare due cose. La prima, privarsi di un giocatore che sin qui ha espresso non ancora appieno il suo potenziale, che è Balotelli. La seconda, mettere in casa propria un giocatore come Cassano, che ha un carattere particolare, è molto migliorato, negli ultimi tempi ha trovato l'amour, quindi con l'amour si può fare un sacco di cose, ma resta un ragazzo che in un ambiente come quello della Sampdoria, dove lui era la stella e tutti gli altri erano il contorno, ha reso nell'Inter e il discorso cambia. Se il discorso cambia un po'. Togli una curiosità, Alessandro: mercato dell'Inter che secondo me è stato praticamente perfetto, perché l'affare Ibrahimovic secondo me è stato praticamente perfetto, studiato e cercato o un po' trovato per strada? Ma un po' tutte e due le cose. Un po' trovato, perché a un certo punto il Barcellona ha dovuto rispondere all'offensiva del Real Madrid, e quindi l'unico nome davvero importante che era rimasto sulla piazza era quello di Ibrahimovic. Tant'è vero che io penso, questo è un pensiero mio, poi magari mi prendo le responsabilità di quello che dico, dal punto di vista tecnico il Barcellona aveva più bisogno di Eto'o che non di Ibrahimovic. Cioè, il Barcellona è una straordinaria squadra di giocatori, di giocolieri, diciamo così, e il finalizzatore era quello che manca e che mancava. Ibrahimovic è un giocatore un po' diverso, quindi ecco, il Barcellona cerca il colpo, c'è Ibrahimovic, l'Inter prende la palla al balzo perché comprende al volo che ci sono gli estremi economici per fare il colpaccio, E poi, insomma, si priva anche di un calciatore che avevamo prodotto pescato, diciamolo francamente, con tutte le sue dichiarazioni, i suoi mal di pancia, certo, i suoi certo. Non so. Insomma, io credo che i presidenti si siano stufati di certi comportamenti e sia anche giusto a un certo punto, così, non so se seguire il flusso del mercato, ma anche istintivamente dire vabbè ragazzi, volete andare, andatene se sì. Ci sono le condizioni. No, ma infatti Moratti, è tutta estate che lo dico, è stato il migliore in campo in questo mercato estivo, per come sia. Per me il migliore in campo è un altro, cioè? Perché sia io che Alessandro che Carlo abbiamo sbagliato mestiere, perché io è da metà maggio, esattamente da metà maggio, se uno facesse il conteggio delle apparizioni televisive di uno strano personaggio, un tracagnotto sempre con la maglietta, col telefonino, con il collegamento con l'auricolare, con gli occhiali, che non dice mai nulla, che nega anche l'evidenza più palese, insomma sarebbe probabilmente il personaggio più presente nei palinsesti televisivi da metà maggio in poi, dall'inizio dei mal di pancia. Ma chi, di Ibrahimovic? Mino, il mitico Mino Raiola. Allora io voglio sapere da Alessandro, ma che rapporto hai con Mino Raiola? Lo chiamate sempre, ormai è diventato una sorta di compagno quotidiano. Ma guarda, Mino Raiola è un eccezionale talento, perché con una telefonata guadagna quanto noi, non lo so in quanto tempo. Sì, e quindi è un eccezionale talento. È uno di una furbizia unica, ha molto pelo sullo stomaco, sa esattamente quello che vuole, e cioè molti soldi, e questo è il suo obiettivo. Evidentemente ha anche talento nel sapere entrare nelle grazie di determinati giocatori che hanno una testa particolare. Ricordiamo sempre che intorno a un calciatore c'è anche tutta un entourage, una famiglia, quindi sai, non è molto semplice, e quindi lui ha questa capacità evidentemente. Poi deve avere un talento che io però non conosco, perché bisognerebbe, e questo è il prossimo traguardo che ci poniamo a calciomercato, veramente mettere una telecamera di fronte ad una trattativa sarebbe proprio il massimo. Fantastico. Cioè, proprio due che si ritrovano al tavolo, la telecamera in mezzo e noi che ascoltiamo tutto, magari con Lotito da una parte. Esatto. Vabbè, ci vuole del tempo, però sì, con Lotito ci vuole un paio di giorni soltanto per entrare, poi dopo. E quindi anche in quel momento lì lui deve essere particolarmente abile. Però devo anche dire che tra gli operatori di mercato ci sono alcuni, insomma, che hanno seguito una strada istituzionale, cioè che è quella della non so, prima sono stati avvocati, hanno uno studio e poi dopo magari, quindi è verso un personaggio come Raiola, magari c'è anche qualcuno storce la bocca e dice ma insomma questo che cosa vuole, che sì, parla questo italiano un po' bizzarro, no, da emigrato in Olanda, sul quale lui intelligentemente, quindi anche questo è un altro elemento a suo vantaggio, ironizza, insomma, questo suo italiano stentato. Lui ha sempre detto: io purtroppo sono un italiano che ha problemi a parlare la propria lingua, quindi insomma lo dice lui. E ecco, nell'ambiente è considerato uno bravo anche da quelli con il diploma, diciamo così. Beh, è stato incredibile vedere la differenza tra i procuratori dei due personaggi più discussi e più chiacchierati durante almeno questa fase del calciomercato, perché il procuratore di Eto'o sembrava un e magari lo è, un professorone, un avvocato catalano di questi qua, preparatissimi, giacca e cravatta, serio, e però insomma anche disponibile, insomma, che sa, uno che sa il fatto suo, però con un bagaglio culturale anche notevole. Dall'altra parte questo personaggio bizzarro che ci ha accompagnato, che voi rincorrevate, a un certo punto ho visto un'immagine, facevo zapping in televisione un giorno e vedo le telecamere che si affollano verso una macchina con i giornalisti tutti che corrono all'impazzata. Pensavo che uscisse fuori dalla macchina, non so, cioè George Clooney oppure un ministro, un presidente di qualche cosa, era Mino Raiola. Evoluzione della specie Caliendo, secondo me. Probabilmente sì, è vero quello che dici, in effetti è vero, e considerando che Caliendo è quello che ha inventato il mestiere, è come Chuck Berry che poco sapeva suonare la chitarra ma ha inventato il rock and roll, e quindi insomma diciamo che dei talenti ci sono in giro, evidentemente in ognuno di noi, bisogna scoprirli, insomma. Bisogna scoprirli. Però su Mesaias è vero quello che dice Giuseppe, innanzitutto è il volto nuovo di questo mercato, perché sin qui non lo conoscevamo. Ha un'immagine di sé molto rassicurante. A me ricorda un ministro degli esteri, cioè una sorta di diplomatico internazionale, un Henry Kissinger, insomma, della situazione, perché tra l'altro è anche molto carino, anche molto disponibile. Se tu lo vai a contattare, lo chiami al telefono, lo incontri, insomma, e per incontrarlo basta, insomma, circolare da Giannino in questi giorni, sicuramente prima o poi ti batti in lui. Lui è sempre molto disponibile, però ha dei numeri importanti, perché insomma si può dire che Moratti ha fatto un affare, anche perché da questo momento in poi le tratta col Mesaglia, se non con Bino Raio. Giuseppe Cruciani qui con me, Alessandro Bonanna al telefono, ascoltatori che stanno arrivando 800 24 00 24, tra poco cominceremo a parlare con loro. Dai miei due ospiti vorrei una lettura della storia comunque più interessante di questo mercato, cioè l'improvvisa povertà del Milan. Leonardo, aziendalista di ferro, è sempre più nervoso, gli si è permesso anche di rispondere praticamente in tempo reale a Berlusconi, che ha detto il Milan punterà sugli under 23. Due minuti dopo l'agenzia di Leonardo che dice sì, però bisogna prendere quelli bravi, non stiamo tanto lì a guardare la carta d'identità, e per prendere quelli bravi servono i quattrini che al Milan non ci sono più. Alessandro. Ma l'inversione di marcia del Milan è spiegata soltanto da un bilancio che deve essere assolutamente quanto prima risanato. E allora probabilmente bisognerebbe spiegare un po' meglio questa cosa a gente, per farla capire proprio alle persone che magari in questo momento si stanno spazientendo del fatto che il Milan non ha acquistato un grande giocatore. Sono cambiati i tempi, è cambiata la musica, il Milan di oggi è un'altra cosa rispetto al Milan delle grandi spese, anzi il Milan che ha inaugurato le grandi spese dell'era Berlusconi. E anche questo discorso dei giovani chiaramente ci può stare. Chiaramente la gente non capisce molto, non fa fatica ad adeguarsi, perché si passa da una politica delle grandi spese degli ultra trentenni alla politica del risparmio e dei ventenni, e questo nel giro di pochi giorni, di pochi mesi, e quindi è difficile per le persone. Sì, direi anche con qualche contraddizione, perché non è certamente una novità che Berlusconi magari si possa contraddire nel giro di qualche giorno, o possa dare versioni diverse della stessa cosa, perché questa roba dei 23enni o degli under 23, insomma, cozza con per esempio alcune decisioni recentissime, non di 100 anni fa, nemmeno di qualche mese fa, a parte la vicenda Ronaldinho, che certamente è giovane, non è, ed è stato acquistato non più tardi di un anno fa. Però possiamo pure ammettere che questa conversione berlusconiana agli under 23 sia roba recente. Ma allora come si inquadra l'acquisto, non so, di quel centrale americano O'Neal, che è stato acquistato e che non mi pare un under 23, anzi credo abbia 27-28 anni. La chiave sta proprio là. Non è stato acquistato, parametro zero. Sì, no. Esatto. Sì, Onyebu è quello che loro considerano il classico piccolo affare, insomma, zero lire, un giocatore che loro pensano possa essere utile da inserire nella rosa, gli costa poco, non gli è costato niente, gli costa poco di ingaggio. Direi insomma che è un qualcosa di profondamente marginale rispetto all'altro tipo di discorso. È anche vero quello che ha detto Giuseppe, cioè che il Milan di oggi comunque paga l'acquisto di Ronaldinho. Certo. Perché quello dello scorso anno è parso a tutti da subito un lusso che forse il Milan non era nemmeno giusto si potesse togliere, capito? Quindi era un qualcosa che dal punto di vista anche tecnico aveva poco senso. Poi il Milan oggi ha fatto questa rinuncia a Kakà, e il rilancio di Ronaldinho si pone come obbligo, chiaramente. Però insomma, parlo di persone che questo Milan, che lo scorso anno spendeva tanto per un di più, che era Ronaldinho, oggi invece stenta a trovare sul mercato, ad acquistare quello che invece è assolutamente necessario. Sì, no, io noto una cosa, Alessandro, che è questa, è un po' da profano, che cerca però di capire in generale quali siano le strategie, no, di una società. E questa società può essere una società di calcio, come può essere la strategia di un uomo politico, come può essere la strategia di una società che opera in un altro settore, e ci vuole sempre grande determinazione, grande chiarezza, progetti, no, e lampanti, evidenti, solari, e soprattutto e soprattutto determinati. Quello che manca è questo, cioè c'è un po' di caos, perché francamente un Milan che inizia con Cissoko e poi lo scarta, non so se per i denti o meno, ma insomma tu denti. Hai fatto un tormentone su questo, ma Alessandro, ha fatto un tormentone per i troppi denti di Cissoko, che ha un bravissimo e simpaticissimo procuratore italiano, e Zeko, la vicenda di Zeko, insomma di Luis Fabiano, passa attraverso non so quanti nomi di attaccanti nell'ultimo mese, tutti quanti veri, non veri, presunti, offerte reali, che poi in realtà non si sono concretizzate nulla. Questa è una prima volta assoluta che si crea una situazione così caotica nel mercato del Milan, con una mancanza, secondo me, di chiarezza di obiettivi che è strabiliante, perché si può essere poveri, però belli anche, no? Oppure me... anche se si può essere poveri, ma con le idee chiare. Ma l'attaccante del Milan sarà il primo credibile che costa 14 milioni di euro, perché quelli sono ciò che il Milan ha da spendere. Sì, ma insomma sei ottimista sui 14 milioni, sì. Perché non è detto, insomma è una cifra, sì, certamente non credo che il Milan poi possa trovare qualcosa di buono a meno. Adesso stanno provando a imbastire questo scambio con soldi a favore, chiaramente, Pirlo, Claudio Pizarro, che attenzione, è un 31enne, ma è un ottimo attaccante, non è un nome, quindi chiaramente questo potrà provocare dello scetticismo, però è un ottimo attaccante. Al momento non c'è distanza tra quello che offre il Chelsea, che sono 8 milioni, e quello che invece chiede il Milan. Per esempio, io ci sono alcune cose tra l'altro incomprensibili, cioè perché che il Real Madrid, che ha bisogno di un centrocampista, è pronto a spendere, forse perché ancora non è certo, 30 milioni di euro per Xabi Alonso, e invece non prova ad acquistare Pirlo, che il Milan ha messo sul mercato, avendo di ritorno un giocatore che al Milan interessa, che è Huntelaar, e che di fatto a Real Madrid non serve. Ci sono delle cose abbastanza strane del mercato. In passato ce ne sono state tantissime, cioè perché il Milan non ha preso Giuseppe Rossi, ne abbiamo parlato anche ieri sera, quando il Milan, per esempio, quando il Parma in pratica glielo ha offerto, ma non soltanto il Milan, molte società italiane. Questo è stato, insomma, è un delitto insomma dei nostri dirigenti, essersi lasciati sfuggire un giocatore così. Allora, abbiamo ascoltatore in linea, Leonardo Bologna e poi Luigi, provincia di Ascoli Piceno. Leonardo, buongiorno. Sì, buongiorno. Dunque, io volevo parlare di Cassano. Sì. Ecco, secondo me Cassano è un giocatore che da quando, diciamo, è uscito dall'habitat di Bari ha dimostrato di tenere dei comportamenti sempre non all'altezza di un professionista del pallone. Beh, mi pare che le ultime stagioni sampdoriane invece abbiano segnato un'inversione di tendenza da questo punto di vista. Ma secondo me il discorso della Sampdoria, perché poi lui a Madrid anche lì ha tenuto dei comportamenti sui quali ci sarebbe molto da dire, pur avendo ammesso che era per lui una meta importantissima. Sì, anche se ripeto, appunto, senza stare a fare la storia di Cassano, gli valgono le ultime stagioni, mi sembra diventato non dico un personaggio credibile, però quantomeno uno che si possa inquadrare in certe logiche. Ma quel che è certo è che la storia di Cassano è abbastanza precisa fin qui, cioè gli indizi sono molto importanti. Allora, Cassano è stato eccezionale quando ha potuto agire da prima donna, e ha fallito quando invece è stato messo in una condizione diversa, con una, diciamo, parentesi romana nella quale lui ha fatto molto bene, però che lì, insomma, ha retto troppo poco per far sì che quella esperienza potesse, come dire, fare statistica nella carriera di Cassano. Però, insomma, quel che io so è che lui è un ragazzo che ha voglia, se non è proprio cambiato, ha voglia di farlo, e ha voglia di costruirsi una famiglia, insomma una solidità intorno che forse fin qui non ha avuto. L'amour, quindi, come dici tu, no? L'amour, quanto l'amour, conta l'amour? C'è l'amour, l'amour conta, ma Giuseppe, tu lo sai benissimo, tu che sei un innamorato dell'amour, lo sai. senti Alessandro, prima di salutarti però volevo un altro parere su due squadre il cui mercato mi è piaciuto moltissimo, Napoli e Genoa. Secondo me più forti, decisamente più forti dell'anno scorso. Anche ma se chi per è questo quanto riguarda... Offer che ha comprato il Napoli ieri? Dove è spuntato? Alessandro, raccontaci un po'. Questo Offer è assegnato... Di Marzio sa tutto, Di Marzio sa tutto. Sì, di Offer. Sì, Di Marzio. No, la cosa che è tifoso carina... del Napoli, facciamo i coming out anche per voi, perché l'avete fatto con me l'altra sera. Allora, Di Marzio è tifoso di una... quindicina di squadre, perché no, è tifoso del Napoli, diciamo la verità. Ma lo sai perché? No, perché lui poi è nato a Napoli, ma poi dopo con suo padre che girava, ha vissuto in 50 città diverse, quindi tre volte si affezionava a quella o a quell'altra, ad esempio il Padova, che dove ha vissuto tanto tempo. Ma mentre dicevo che tu non confessi però, La mia, cioè io sai, ognuno è stato, lo dico sempre, insomma, ognuno è stato qualcosa anche di importante, fa parte di noi, insomma, io sono nato e cresciuto, sono nato a Pistoia, ma sono cresciuto professionalmente a Firenze, la Fiorentina è stato il mio punto di riferimento, cioè non è che va bene. Tifoso come ragazzo, poi dopo si fa il tifo perché ci dà la possibilità di andare avanti con questo mestiere, in questo caso io faccio il tifo per Sky e non baratto questo tifo per Sky con il tifo per nessun'altra squadra, nemmeno per la Fiorentina, quindi questo è quello che mi anima. Detto questo, dicevo che è molto bello il retroscena su questo Offer, perché noi eravamo al corrente del fatto che il Napoli stava cercando un che assomiglia a Kirk Douglas. Quindi ce lo sapevamo prima, perché l'avevamo, insomma, per vie traverse appreso dal presidente De Laurentiis. Siamo impazziti su sta cosa qua, cioè a cercare di una foto che assomigliassero a lui, e anche i napoletani, a cui per esempio Di Marzio ha parlato attraverso delle radio, si sono appassionati a questo gioco, e gli stessi napoletani sono arrivati alla ricerca e hanno trovato Kirk Douglas austriaco a questo Offer, che a me francamente non sembra che assomigli a Kirk Douglas, però insomma evidentemente qualcosina forse ce l'ha. Sconosciutissimo. È un giocatore molto rapido, sì. 76, è una seconda punta, è giovane, mi sembra abbia 23 anni, ha segnato 26 gol nel campionato austriaco, quindi non è proprio un fesso, come si dice in questi casi. Insomma, poi lo vediamo. Il suo mestiere lo sa fare. Lo vediamo qui da noi. Grazie Alessandro, grazie davvero, buon lavoro. Un saluto a tutti. Eccoci qua, siamo tornati, sempre come Giuseppe Cruciani, forse andiamo avanti fino all'ora della zanzara. Magari. No, poi si cambia registro e via con la politica. Luigi, provincia di Ascoli Piceno, poi dobbiamo anche una risposta sul Genoa, che abbiamo lasciato un po' lì in sospeso sul Napoli, su Offer. Luigi, buongiorno. Buongiorno. Dica. Voglio fargli i complimenti per la trasmissione. Grazie. Io sono un tifoso interista e devo dire che sono contentissimo per l'acquisto di Samuel Eto'o, un giocatore che gioca molto per la squadra, ma nello stesso tempo mi dispiace perdere appunto Ibra, che è stato un fenomeno, grazie a lui ci ha fatto vincere l'ultimo anno, in particolare degli scudetti. La cosa che non mi ha dato fastidio è il bacio di Ibra sulla maglia del Barcellona, perché guardando la sua presentazione su Sky ho notato che lui è veramente, ma veramente felice di giocare il prossimo anno a Barcellona, sì. Che non riuscivo a vedere quella felicità nel giocare nel campionato italiano. Molto probabilmente, come diceva Ibra, c'è troppo stress e noi non le abbiamo dato risalto a questa situazione. Ma... non per questo la Juventus, mitica società, a due giornate dalla fine del campionato manda via Ranieri, un grandissimo professionista. Io sto rendendo conto che forse in Italia il calcio lo stiamo prendendo forse troppo in un modo, sì, un modo non da oggi, quanto al bacio di Ibrahimovic, non è stato un bacio d'amore secondo me, ma un bacio di un corteggiatore furbo davanti a 50.000 persone. Ma sono dettagli, Carlo, all'interno di una vicenda, dettagli anche poco importanti, capisco che facciano impressione, dunque si confronta il bacio di Ibrahimovic col non bacio di Eto'o, però curioso notare come non in questi giorni non ho trovato interisti così dispiaciuti dell'addio a Ibrahimovic, che pure è stato la stella di tre scudetti. Sì, naturalmente bisogna vedere quali interisti e chi parla, naturalmente, perché per i tifosi della curva Ibrahimovic è quello che li manda a quel paese dopo i fischi. Per gli interisti, diciamo, che non ragionano da tifosi, io credo che comunque l'addio di Ibrahimovic sia un colpo. Naturalmente poi adesso la squadra può avere anche un'evoluzione positiva come costruzione di gioco rispetto a Ibrahimovic, però resta quello che che si è portato in spalla l'Inter negli ultimi anni e gli ha fatto vincere quasi da solo in alcuni casi lo scudetto, per cui le persone più assennate, non i tifosi diciamo da curva, sicuramente sono lì a interrogarsi su quello che può avvenire dopo Ibrahimovic, che è comunque un punto interrogativo, al di là dei proclami, dei sistemi di gioco, eccetera. Comunque, senz'altro, Ibrahimovic ha un bel vedere, quindi per gli interisti esteti quantomeno ci sarà questo cruccio, no? Perché comunque Ibrahimovic è un giocatore di enorme talento e anche onestamente uno dei pochi che mi divertono sul serio. È un giocatore che assicura durante l'anno quel numero di gol e quel numero di quelle soluzioni estemporanee a partite che sono incanalate magari verso un pareggio. È l'unico giocatore in questi ultimi anni in Italia che abbia fatto davvero la differenza. Il resto è tutto un'incognita, dunque io capisco chi si pone dei dubbi. Quelli contenti francamente non riesco a, se non i tifosi della curva o le persone che pensano che il calcio sia una questione di innamoramento. Ibrahimovic c'è uno che col calcio fa i quattrini ed è giusto così. Giorgio Prato. Sì, buongiorno. Buonasera. Dica. No, intanto mi complimento con la vostra trasmissione. Faccio complimenti a Cruciale che lo seguo tutte le sere. Sì. Oggi doppietta. Oggi doppietta per Cruciale. Oggi doppietta. Senta, no, volevo siccome il Milan, mi intervengo per questo. Il Milan ha poche disponibilità economiche, evidentemente, o per scelte strategiche della società o per altre cose, non lo so. Comunque sono disponibili 14 milioni di euro da investire per rafforzarsi. Ho sentito parlare nei giorni scorsi di un eventuale acquisto di Diamanti del Livorno. Volevo sapere se c'era effettivamente o meno un interesse all'acquisto di questo calciatore. La ringrazio e la sento per radio. Grazie a lei, Giorgio. Non saprei per fare cosa Diamanti al Milan. Mi sembra che in quella posizione ci sia già quantomeno Ronaldinho, poi magari anche qualcun altro, no? come numero 10, come fantasista, quindi mi sembra un po'. Forse qualcosa c'è, ho sentito nei giorni scorsi il presidente Spinelli che un po' infastidito da alcune domande su Diamanti. Diamanti è un gran giocatore, sicuramente, è un giocatore scoperto anche tardi dal grande calcio. È un gran giocatore, sicuramente non la penso come te, penso che farebbe comunque comodo un giocatore di quel tipo al Milan. Giovanni Milano, buongiorno. Giovanni Milano no, Vincenzo Riccione. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Intanto vi volevo fare i soliti complimenti, soprattutto a Cruciani, che se tutti i giornalisti fossero come lui in politica, probabilmente in Italia avremmo anche più informazione neutrale. Questo è proprio un complimento per lui. E volevo dire, io sono di Riccione, ma sono un tifoso sandoriano da tantissimi anni. Secondo me, volevo dare un'opinione semplicissima, secondo me Cassano non va via dalla Sampdoria quest'anno perché probabilmente si vorrà giocare un posto per il Mondiale. Lui alla Sampdoria sicuramente ha la possibilità di giocare tutte le partite, in altre squadre, come avete rimarcato voi, dove ci sono più campioni, probabilmente avrebbe meno possibilità di mettersi in vista. Spero in ogni caso che rimanga e che magari ci lanciano anche Mancini dell'Inter, che se deve fare la panchina lì, magari insieme a Pazzini e lui. Qualcosa di carino si potrebbe pensare di fare anche quest'anno. Ma sei ricco. Grazie a lei, Vincenzo. Non lo convoca nemmeno per l'amichevole, neppure dopo la stagione che ha fatto con la Sampdoria. Quindi, anche se dovesse replicare una stagione di questo tipo, mi sembra evidente che Cassano sia fuori dalle. Sì, difficile, difficile che lo convochi. Per me resta un grande mistero il fatto che non venga convocato, al di là di tutte le spiegazioni sul gruppo, sulle cose e su altre cose che Lippi ha detto e non ha detto. Sulla Sampdoria io sono convinto che non andrà via Cassano. Senza Cassano la Sampdoria, non me ne voglia il tifoso della Sampdoria che ha appena chiamato, è una squadra che lotterebbe quasi per la salvezza, insomma, diciamo la verità. È una squadra che già l'anno scorso ha mostrato grandi lacune. Senza Cassano, e questi dirigenti della Sampdoria lo sanno molto bene, sarebbe un campionato molto complicato. Senti, ma visto che siamo in tema, le rompi grandi, Napoli, dicevamo prima, Genoa, Fiorentina, le romane, chi esce meglio da questo mercato? A me, per dire, piace molto il Genoa, che è una follia, no? Perdi due giocatori migliori, le due stelle, eppure ha comprato molto molto bene, perché Floccari secondo me è una splendida idea, che poteva magari venire anche quelli del Milan, tanto per dire, in cerca di un attaccante, non c'è mica bisogno che parli straniero. E poi comunque un pugno di giocatori molto interessante. Anche Esposito della Lecce, che è arrivato, sì, che è arrivato ieri, ho visto, è un mercato stranissimo in cui il Genoa riesce a strappare un giocatore alla Roma. Esposito è un giocatore su cui sono entrati in concorrenza a un certo punto Genoa e Roma, in altri periodi non ci sarebbe stata partita, no? Gara, no? E invece è andato al Genoa, addirittura dicendo che è voluto andare al Genoa, ha scelto di andare al Genoa, poi non so se sia vero o no, perché il calciomercato è fatto anche di paroloni quando i contratti si firmano, però certamente il Genoa poteva uscire ridimensionato con la cessione di due grandissimi giocatori, e invece pare che si sia rafforzato. È molto difficile per il gioco che fa il Genoa ripetere un anno strepitoso come l'anno scorso, per il tipo di gioco che fa, che è un gioco che ha bisogno di grande dedizione, di grande velocità, di grande forza fisica. E ripetersi agli stessi livelli dopo un anno così è molto complicato, eh? Anche se Gasperini ha la bacchetta magica in tasca, perché tac rigenera Borriello che segna una valanga di gol, tac ecco Milito che ne segna 50, poi tac Thiago Motta fermo da tre stagioni che torna ad essere un super giocatore, hai visto? Se succede anche con Crespo, attenzione, sì. Se succede anche con Crespo, attenzione. Giovanni Milano, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, io ritorno un attimino sulla questione, io premetto sono tifoso del Napoli, e torno sulla questione di Lavezzi. Dunque, il giocatore, partendo un giorno prima, ha sbagliato, però sentendo integralmente la conferenza stampa di De Laurentiis si contraddice in molte occasioni. Uno, il fatto che questa storia con Lavezzi, che uscivano di sera, si protrae da già quasi un anno, però quando il Napoli è andata in Coppa UEFA, diciamo, dirigenti, pur sapendo della vita notturna, sono stati zitti, mentre era lì che dovevano intervenire. Poi, se il presidente dice che Lavezzi non è Maradona, d'accordo, che ha fatto 7 gol, però bisogna ricordargli, chi ha visto tutte le partite del Napoli, che Lavezzi è l'unico giocatore del Napoli che riesce a risolvere le partite da solo. Non sarà Maradona, però nel cuore dei tifosi napoletani è molto amato, e perciò invito ai tifosi, il 5 agosto, quando ci sarà l'amichevole contro gli Spagnoli, di... Non c'è bisogno del mio invito, sicuramente manifesteranno tutto l'amore che si ha per questo giocatore. Poi, tornando un attimino, vado un attimino al Milan, sulle parole che ha detto il giornalista Bonan. Lui si stupiva come mai il Real Madrid non prenda Pirlo, offrendo un giocatore che non serve, tipo Huntelaar, al Milan. Io mi stupisco ancora di più quando il Milan, nella persona di Galliani, sono andati a vendere in pratica Kakà, non hanno messo nella trattativa Huntelaar, che potevano prenderlo quasi gratis, perché il Real Madrid Kakà, certo, l'avrebbe preso in qualsiasi maniera. Sì, probabilmente Milan voleva Quattrini, però non ha torto l'ascoltatore. Se vuoi Huntelaar, probabilmente l'idea Huntelaar è arrivata dopo la cessione di Kakà, che non è avvenuta quando Kakà, insomma, ha firmato quella famosa maglietta al ritiro del Brasile, ma molto tempo prima, no? Si dice. Sì, no, questo non lo so, però questo episodio, l'episodio Huntelaar, fa parte di quella confusione di cui parlavamo prima, no? Sì. Di un mercato del Milan che è iniziato con la vicenda Kakà, è proseguita con Cissokò e i denti, ed è andata avanti con Huntelaar, Luis Fabiano, il centravanti del Brasile. Non si può prendere con 14 milioni di euro, al di là del valore del giocatore. È evidente che ti metti in una situazione improponibile, e sta andando avanti per tentativi, ripeto, adesso la storia degli under 23, dei tentativi che sono frutto di una non chiarezza che francamente è nuova, insomma. Franco, provincia di Treviso, buongiorno. Buongiorno a voi, saluti a lei e ai suoi ospiti. Io purtroppo avete già detto tutto quasi voi, io volevo riallacciarmi alla prima parte di trasmissione quando parlavate di Luis Fabiano a 14 milioni. Non mi pare, dottore, però, che nessun'altra società a 20 sia andato a comprarlo. Poi volevo dire un'altra cosa. Secondo me le motivazioni tra Milan e Inter sono grosso modo questa, nel senso che l'Inter è motivata al massimo perché deve vincere e conquistare questa Coppa Campioni che vinse il papà Moratti, ma sì, il presidente attuale non l'ha ancora vinta. Il Milan invece ha vinto tutto, è da 20 anni che sta vincendo, quindi lei sa che tenersi sempre a certi livelli può anche essere molto difficile. Va benissimo anche cambiare, però si tratta di capire come cambiare e dove si vuole arrivare, perché non si può dire questa squadra è forte come l'Inter o è più forte dell'Inter o può puntare alla Champions League o prendiamo i 23enni, i 22enni, i 40enni. Si tratta di capire esattamente in quale direzione può andare un rinnovamento fisiologico della squadra, e allora parliamoci chiaro, questa squadra non è da scudetto, non è da Champions League, non è da, da grandi traguardi, non è da grandi platee. L'importante sarebbe fare chiarezza, soprattutto con i tifosi, e dire: vogliamo ringiovanire la squadra, andremo in questa direzione, ci vorranno tot anni, 3, 4, 5 anni per tornare competitivi. Penso che qualunque tifoso del Milan accetterebbe un discorso onesto di questo tipo, non pensi, Giuseppe? Sì, penso di sì. D'altra parte l'Arsenal ha intrapreso da tempo una politica di questo tipo e nonostante questo riesce comunque a fare le semifinali di Champions League, a essere comunque tra le prime 3-4. Non si deve sempre vincere, naturalmente, basta quel minimo di chiarezza che fino adesso non c'è stata. Oggi però è una grande giornata, Carlo, cioè? Perché una giornata che mi fa tornare bambino. Perché oggi alle 17 ci sono i calendari, non so se ti ricordi, sì. Adesso la passione per i calendari è un po' tramontata negli ultimi anni, ma una volta l'appuntamento con i calendari era una delle cose più attese dagli appassionati di calcio. I calendari erano come, non so, l'inizio, è come la primavera, esatto, il primo giorno di primavera, l'inizio di tutto. Ricordo quello straordinario film Febbre a 90 in cui c'è quel colloquio tra il protagonista e la fidanzata, in cui lei dice a lui: che fai oggi? No, oggi ci sono i calendari, dunque decido tutto il mio inverno insomma, in base ai calendari. E quando si era bambino era un po' così, insomma, andavi a vedere, no, le giornate, come finiva il campionato, facevi già i progetti. Poi insomma, l'importanza del calendario nella storia del calcio è un po' diminuita forse, però c'è ancora, andare a vedere le ultime giornate per capire se sei messo bene o sei messo male, insomma, non tanto l'inizio, no? Tra l'altro, calendario senza teste di serie potrebbe esserci subito, no? Un botto clamoroso. Sì, immagina prima giornata il 23 agosto di sera Milan-Inter. Prima di trasferirci alle piscine mondiali, Giuseppe D'Alecco, buongiorno. Sì, buongiorno. Innanzitutto un ringraziamento per la compagnia che ci fate tutti i giorni. Grazie a lei. Io sono un simpatizzante milanista, ero tifoso, poi ultimamente mi sono un po' disinnamorato del calcio. Ad ogni modo, la domanda che volevo fare era questa: sono naturalmente un po' perplesso rispetto alla gestione del mercato del Milan, però non nascondo che mi ha lasciato altrettanto perplessa quella del Real Madrid, nella misura in cui chiaramente queste fish da spendere, chi dispone di queste fish naturalmente fa detta legge. Però poi se si vanno a vedere i bilanci ci sono debiti che nessuno sa spiegare come poi si andranno a ripianare, siccome abbiamo visto qualcosa di simile nelle istituzioni finanziarie e poi cosa hanno generato, mi chiedo, come dire, se è meglio l'approccio al mercato del Milan oppure quello del Real Madrid. Ma non penso sia questione di meglio o peggio, penso sia questione anche di ciò che le normative dei vari paesi ti consentono, no? Real Madrid, così come il Manchester United, è esposto per un'enormità di quattrini nei confronti delle banche. Manchester United oltre 850 milioni di euro, dopo questo mercato Real Madrid andrà vicino a quella cifra, però il calcio è gestito in un'altra maniera. Ciò consente a Real Madrid, Manchester United e a questi grandi club di rastrellare quattrini, di pagare senza problemi gli interessi alle banche, che è ciò che loro interessa, ed è così che viene gestito il calcio in altri paesi. Florentino Perez ha molto credito presso gli istituti di credito spagnoli, dunque può domandare grandi somme senza vedersi sbattere la porta in faccia. Giuseppe, cosa ne pensi? È la struttura societaria di Real Madrid, Barcellona, ma anche delle società inglesi a essere l'elemento in più e vincente in questo caso, comunque, che permette di fare certi investimenti. Naturalmente quest'anno è stato un anno eccezionale per il Real Madrid, dettato anche da esigenze di rilancio, dal fatto che Florentino Perez è un po' un Berlusconi dei primi tempi spagnolo, diciamo, no? E dunque ha questo atteggiamento sempre molto aggressivo nei confronti del mercato. Però la struttura societaria, insomma, in Italia siamo ancora ancorati ai padroni delle società, sì, no? Ai padroni, agli stadi di proprietà del comune, eccetera. No, il calcio è gestito esattamente come 50 anni fa, no? Non è stato fatto nessun progresso da questo punto di vista, se non per la Juventus sta lavorando in maniera differente rispetto a tutti gli altri club, mostrando elementi di modernità, sì. No? Per il resto il calcio, nonostante il mondo sia andato avanti, i quattrini siano diventati un'enormità, e il calcio è gestito esattamente, manca solo l'Hotel Gallia per il calcio mercato con i padroni scendono dai macchinoni, siamo lì, Sì, no, ma d'altra parte chi conosce il presidente del Manchester United, chi conosce il presidente del Liverpool, sono personaggi che operano per conto di qualcun altro, per conto degli azionisti, eccetera. Sono figure diverse, questo non significa che il calcio italiano naturalmente sia tutto da buttare, è una la struttura societaria dei team italiani ha anche avuto i suoi meriti. A me pare che in questo momento, per una serie di ragioni, sia però un modello via via perdente. Adesso andiamo in piscina, è il piscina mondiale. Vista City Cars. Welcome to Simplicity. Vi presenta Roma 2009, mondiali di nuoto. Abbiamo aperto il programma sentendo la voce di Alessia Filippi, adesso sentiamo quella di Dario Ricci, nostro inviato laggiù. Ciao Dario. Buongiorno Carlo dal Foro Italico. Dunque, giornata di ieri, vabbè, indimenticabile. Quella di oggi promette qualcosa di importante, no? Perché tra le 18 e le 19 potremmo avere altre medaglie, ce l'auguriamo, magari anche altri record del mondo. Vabbè, sui record del mondo direi che ormai ci si può mettere la firma, perché basti pensare che già in mattinata è arrivato il 17° della serie da parte di Mary DeShenza, la statunitense, nelle batterie dei 200 farfalla, quindi insomma ormai quelli sono all'ordine del giorno. La speranza è che ne segni un altro Federica Pellegrini, che alle 18:31 sarà in acqua per la finale del 200 metri stile libero. Federica ha stabilito ieri il nuovo primato mondiale in semifinale, 1:53:67, ed è la grandissima favorita di questa, che è la sua gara, in cui è oltre che detentrice anche del precedente primato, anche campionessa olimpica. Quindi bisognerà solamente vedere come saprà gestire il peso del pronostico, Carlo, ma sembra che anche la macchina mentale di Federica sia stata ormai rodata in modo perfetto, ne abbiamo già parlato, quindi sì. Invece c'è un Magnini molto in difficoltà, è entrato in semifinale nei 100 con il 13° tempo, sempre molto lento, si annunciano semifinali velocissime, dunque finale addirittura a rischio per l'ex re dei 100 metri. Direi di sì, aspettiamo a definirlo ex perché il titolo va ancora assegnato, ma è chiaro che dopo il bis mondiale a pari merito con Brent Hayden di Melbourne 2007, Filippo non si è mai ripetuto a quei livelli, né mai riuscito ad abbattere quella barriera dei 48 secondi che invece è stata abbondantemente superata da tutti i suoi avversari. Tra l'altro, proprio in questo istante mi arriva la start list delle gare di questa sera e Filippo è nella seconda semifinale, quindi intorno alle 18:04, 18:05, in corsia 1, corsia particolarmente difficile da interpretare per un velocista, perché hai meno punti di riferimento, ti arrivano le onde prodotte dagli altri concorrenti. Speriamo bene, ma in pochi scommettono sulla grande impresa di Filippo, speriamo sappia smentirci. Sentiamo cosa ha detto il suo collega Sielo sulle semifinali che ci attendono e che appunto rischiano di essere così veloci da non permettere a Magnini di partecipare alla finale. La prima prova per la mattina sta un po' difficile per la mattina, però per la notte no, vedremo. A notte va a essere una grande prova. Credo che 1:02:47 vanno a stare fuori da finale. Todos para 47, 1-2 fuori da finale. Quindi 1-2 sotto i 47 rischiano di star fuori dalla finale. Magnini sotto quei 48 non è mai sceso. Giuseppe, cosa non ti incuriosisce la vicenda dei costumi in questi mondiali di nuoto che insomma macinano record a velocità? Io sono molto favorevole ai costumi, non si capisce per quale motivo si debba tornare indietro. È chiaro ormai che i record del mondo sono, come giustamente diceva Dario, un'abitudine, ma uno semplicemente non deve farci caso. C'è un'evidente evoluzione tecnologica che ha permesso di andare sotto certi limiti, ma insomma mi sembra una cosa normale su cui nemmeno discutere. In realtà non capisco tutte queste discussioni. Tra l'altro, premettendo che la telecronaca di ieri di Dario Ricci, la radiocronaca in diretta da noi, mi ha davvero emozionato degli ultimi metri, degli ultimi 300-400 metri di Alessia Filippi, la vittoria proprio della Filippi ha reso forse più umano il nuoto, perché per fortuna non c'è stato il record del mondo, no? A un certo punto uno deve dire per fortuna. Sì, per fortuna. Beh, lontano, alla fine un po' crollata, per cui non c'è stato il record del mondo. Dunque, credo che sia la vittoria più umana adesso, quella della Filippi, no Dario? Sì, bisogna anche ammettere e riconoscere che sulle lunghe distanze l'effetto del costume tende un po' a svanire, quindi si vede un po' di più il nuotatore, ma per esempio parlavamo proprio di Filippo Magnini, lui per caratteristiche tecniche e caratteristiche fisiche è uno tra i nuotatori più penalizzati da questa non evoluzione tecnologica ma incertezza di regole, perché ben venga quell'evoluzione ma magari con una normativa chiara, perché Filippo è un atleta filiforme che fa del galleggiamento la sua capacità migliore, del recupero, della rimonta nella seconda vasca la sua qualità migliore. Beh, questi sono elementi che i costumi di fatto hanno profondamente modificato. La seconda vasca ormai la fanno quasi tutti in carrozza e al massimo delle capacità, e questi costumi vengono esaltati da nuotatori muscolarmente più potenti di Magnini. Speriamo che magari sappia smentirci, lo ripeto ancora, ma a me comunque questi costumi non piacciono, eh. Io preferisco quelli normali, non ti dico lo slim perché non me ne frega niente, il body va bene, la tuta che usava Torp va bene, però questi costumi galleggianti mi sanno un po' di artefatto. In nessuno sport l'evoluzione tecnologica è arrivata ad incidere così pesantemente sui risultati. No, questo sicuramente, anche le considerazioni che faceva Dario sul fatto che le lunghe distanze probabilmente annullano i vantaggi che ci sono sulle distanze più brevi, probabilmente sui 50 e sui 100 metri il costume può annullare alcuni deficit che hai. Sicuramente un nuotatore più veloce e meno forte muscolarmente viene penalizzato rispetto a quelli che sono forti muscolarmente, perché la capacità reattiva chiaramente è recuperi da questo punto di vista con il costume, no? Chi è muscolarmente più forte. Però a me sembra che siano dettagli. È vero che il nuoto è fatto ormai di dettagli, di centesimi di secondo. Se tutti sono sullo stesso piano a livello di costumi, francamente non vedo problema. Tornare indietro mi pare complicato, tanto magari scopriremo fra poco un'altra diavoleria, un costume diverso o qualcos'altro, non so, delle specie di pinne nei piedi che faranno, e si ricomincerà con questa discussione. Dario, per chiudere, c'è anche Colbertaldo negli 800 oggi. Eh sì, no, non dimentichiamocelo, perché Federico Colbertaldo ha conquistato la finale degli 800 stile libero con il nuovo primato europeo. Gli avversari non mancano, a partire dai grandi favoriti Melluli, il tunisino, e Prikhorlov, il russo. Però Federico sta finalmente bene, questa è una notizia, è in forma, non ha avuto gravissimi infortuni nell'avvicinamento al mondiale. Se la meriterebbe davvero una medaglia, perché è un ragazzo solare, in gamba, appassionato di computer e di tecnologia, insomma, nell'era dei costumi tecnologici chi meglio di lui potrebbe impersonificare questo nuovo volto del nuoto. Facciamo un po' di pronostici, pronostici allora, pronostico Pellegrini e pronostico Colbertaldo, Carlo. Beh, Pellegrini... Dario, anzi no, vai Dario. Pellegrini, oro, Colbertaldo direi bronzo, secondo me ci arriva. Ci sarà la rivincita di Phelps sui 200 farfalla, anche se entra non con il miglior tempo, perché Matsuda, il giapponese, attenzione ai giapponesi che stanno facendo un ottimo mondiale, potrebbe dargli fastidio. Sui 100 forse per fare il podio è ancora presto, però secondo me Filippo non entra in finale. Sono d'accordo, non sono così convinto, attenzione, che la Pellegrini vada oro. Sì, oro Pellegrini sicuro, e secondo Colbertaldo, secondo me, lotta per l'oro. Beh, dopo le 6 resto non seguo. Dopo le 6 Dario Ricci ci racconta tutto. Grazie Dario. Grazie a voi.